E c'è una, non c'è più la meritocrazia. Io una volta mi facevo macinare di dentro, adesso invece vedo, prendo atto che è una realtà, è una realtà. Prima o poi ci sarà un ritorno a volere qualcosa dove tu dici: ah, finalmente questo ha qualcosa da dire, capito? Ci sarà una, e sarà lo stesso pubblico che farà le divisioni, che farà gli scomparti. Questo sta qui, questo lo mettiamo lì, quello lo mettiamo là. Però lo vedo come una spettatrice, che è diverso, che come parte in causa. Ritorniamo insieme con gli incontri, gli eventi, i protagonisti di una settimana di spettacoli. Li abbiamo seguiti tutti in tempo reale via Twitter, giorno per giorno, tra conferenze e presentazioni stampa. La musica nella seconda parte del nostro 140 caratteri. Teatro Coccia, Novara. Un'istituzione della musica d'autore, il Club Tenco. Tutti ne parlano, pochi lo conoscono davvero. Il responsabile artistico Enrico De Angelis. Noi ci siamo da 40 anni, il Club Tenco è stato fondato nel 1972. È un'associazione di appassionati creata da una figura singolarissima di Sanremo, che era Amilcare Rambaldi, il quale tra l'altro dopo la guerra si inventò anche il Festival di Sanremo, ebbe l'idea del Festival di Sanremo, poi non se ne occupò più. E dopo la morte di Luigi Tenco nel 67, qualche anno dopo, pensò che si poteva ricordarlo, ma la sua idea illuminata fu quella non di fare un fans club di Luigi Tenco. Era una visione in prospettiva futura, questa è la sua genialità, insomma, cioè di fare qualcosa per dare spazio a tutti quegli artisti, quei cantautori in particolare, che come Tenco non avevano avuto, non stavano avendo il successo che meritavano, cioè artisti di qualità che però insomma non sfondavano. Teniamo conto che in quegli anni, stiamo parlando appunto dei primi anni 70, i cantautori non erano così di moda o amati come è successo poi, e l'esplosione è stata proprio negli anni 70, e un pochino forse è stato anche un po' merito del Club Tenco. Che cosa fa oggi, 40 anni dopo, il Club Tenco? Cosa organizza? Allora, la manifestazione storica più importante che ha sempre fatto il Club Tenco è la rassegna della canzone d'autore, si chiama così, e si è sempre fatta a Sanremo. Tra l'altro noi siamo arrivati al Teatro Ariston prima del Festival di Sanremo, siamo arrivati a occuparlo con la canzone. Anche questo forse da dire, il premio Tenco è il nostro massimo riconoscimento, è un premio alla carriera, a chi fa canzone, che scegliamo noi, che decidiamo noi del Tenco. Poi però ci sono le targhe Tenco, che invece sono dei premi dati ai migliori dischi usciti nell'anno, negli ultimi 12 mesi, sempre nel campo della canzone d'autore italiana stavolta, e però queste targhe non sono decise da noi del Tenco, ma sono decise da una vastissima giuria di giornalisti musicali che noi interpelliamo. Quest'anno hanno votato più di 160. Quest'anno non potevamo fare la serata delle targhe Tenco a Sanremo per questi motivi finanziari. Il Comune di Novara, il Teatro Coccia, un bellissimo teatro, ci ha offerto una collaborazione, un finanziamento, e non solo abbiamo organizzato a Novara questa serata con le targhe Tenco di quest'anno, ma addirittura Novara ci ha proposto di organizzare 3 giorni pieni di eventi piccoli e grandi, anche quelli mattina, pomeriggio e sera. Teatro Coccia, Novara. Targhe 2012 a Enzo Avitabile, Francesco Baccini, Colapesce. Per miglior disco un ex aequo con gli After Hours, un cantautore da scoprire, Zibba. Zibba è un cantautore ligure che sta facendo piano piano tutti i passi che voleva fare nella sua vita, ovvero nel 2012 posso dirmi contento di aver vinto la targa Tenco, di aver vinto altri premi negli anni precedenti, anche altri quest'anno, di aver raggiunto quello che volevo nella mia vita artistica e soprattutto di avere finalmente una band che mi piace al 100%, quindi di avere una famiglia di musicisti che lavora con me a questo progetto con serenità, che mi dà la possibilità di girare l'Italia senza tante paranoie, insomma con l'atmosfera giusta che ci vuole in un furgone sporco e sudato. E soprattutto in questo momento anche una persona realizzata dal punto di vista umano e affettivo, quindi sono perfettamente dotato per la felicità e non inseguo più la fama o il successo, ma mi godo quello che arriva giorno per giorno con tanta gioia, quindi molto bello, ecco, per adesso mi sento molto bene. Sei accompagnato da una parte della famiglia oggi? Una parte della famiglia che è Stefano Cecchi, che oltre a essere da quasi 3 anni ormai il bassista degli Alma Libre, è anche il fonico che ha realizzato questo disco con noi, scelta per noi molto importante perché abbiamo avuto la grande fortuna di aver acquisito il mio bassista preferito. Lo dico perché alla radio non si vede, intanto il bassista ride sotto i baffi. Sotto la barba. Sì, sì. No, è un'ottima fortuna collaborare in questo progetto dove do sfogo a quella che è la mia totale passione, che mi permette di avere sfogo in questo progetto che reputo un grandissimo progetto. Il mio cuore va lento, la mia voce si fa sottile, torneranno la luce di maggio, le sere infinite, accompagno il tuo arrivo con un battere lieve, come il suono dei passi sulla neve. Allora, serenità, understatement, però un disco che si è portato a casa il riconoscimento come miglior disco dell'anno. Un riconoscimento importante per un disco, che cosa rappresenta per te questo riconoscimento? Questo per me e per noi come entità musicale rappresenta assolutamente un punto di partenza. Lo dicevo poc'anzi con un altro amico giornalista, che è come se ci avessero dato una batteria in più, no? Una mezza torcia in più nel caricatore delle pile, un po' di autonomia in più per andare avanti. Il premio Tenco assolutamente serve tantissimo, vincere questa targa è un punto di partenza importante per andare avanti con qualcosa in più in tasca a livello di esperienza, e assolutamente il fatto che, come diceva Enrico De Angelis, quando loro ci hanno tra virgolette scoperti portandoci sul palco del Tenco del 2010 eravamo un po' più sconosciuti, e adesso il nostro nome è lì in mezzo a una lista di nomi giganteschi di cantanti, di cantautori e autori italiani, quindi adesso esistiamo. Bello. 7 amori per 7 villani, 50.000 ornamenti papali, festa dei tavoli in legno, fine del mondo domani ad 1 metro da qui, passa voce che passo parola, dammi lingue mutande viola, pesto e vitello, crudo di misto di razze, di fisionomie da città, muoviti non c'è più tempo, dove hai messo il vento, svengo, qua io e lei non era qui, ho un orizzonte nuovo che mi ricorda un po' il perché. Al pubblico cosa vorreste che arrivasse tramite questa targa Tenco? Insomma, serve anche a farsi conoscere verso magari un pubblico che è abituato solo alle cose più mainstream. Beh, noi abbiamo scelto di non fare mainstream, cioè quella è una scelta che fai non perché ci faccia schifo, ma perché in realtà la musica è un bellissimo gioco, tu puoi scegliere quale carte avere in mano e quale vuoi giocarti. Noi ci giochiamo la carta della verità. Sul palco portiamo quello che siamo noi, non siamo artefatti in nulla. Al pubblico vogliamo che arrivi, vogliamo che arrivi quello che vogliamo trasmettere, ovvero la serenità, la voglia di vivere bene, la voglia di godersi la vita per quello che è, senza farsi magari troppe menate, senza mettere troppe infrastrutture fra quello che siamo e quello che ci accade. E non so se la targa ci aiuterà o meno in questo, ma sono sicuro che lo facciamo benissimo giorno per giorno da soli nei nostri concerti, nelle interviste, nei live. Quello che vogliamo fare è essere un punto di riferimento emotivo per le persone. Le mail che ricevo al mattino di persone che mi dicono grazie perché una canzone li ha salvati da un brutto momento sono il più grande riconoscimento che abbiamo. Ed è tutto per il 140 caratteri di questa settimana. Continuate a seguirci ogni giorno seguendo il nostro account ufficiale @140caratteriR24, ma anche il mio account @MartaCagnola. L'appuntamento in radio è per domenica prossima.